Okay. Madman. Yeah. Sei yeah. Buzzer on a beat, oh. Sir, sta per signore, ritorno come signore. E c'ho, perché c'ho più fatti che parole. Io ho commesso ogni peccato, ogni torto. Se Dio esiste non se ne è accorto. ARM, sono Gesù a Gerusalemme. Boss RAPPER. Il gioco si ripete. Fai come facciamo noi con le guardie. Non dire niente. I soldi cantano soltanto belle melodie. Dovresti ascoltarle se non sai che dire. Tra chi conta e chi li conta, purtroppo è più importante la seconda. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno come me, matto. Sfidami e sei morto. Scendo in strada profumato col completo camo. Io mi credo molto meglio, non mi credo bravo. Il mio risultato non è buono e ottimale. Se, a casa non lo rifare. Se, a casa non lo rifare. Se, a casa non lo rifare. Se, casa non lo rifare. Ho visto il tuo video, scusa, devo vomitare. Viene fuori il tuo nome di bro, ridono come i tuoi che nemmeno te lo dicono. Ironia della sorte sul patibolo. Ora che i soldi parlano non hai voce in capitolo. Il rap italiano mi sta un po' strettino. Certe merde valgono meno di uno spentino. Io voglio fare un buon lavoro, mica lo zerbino. Io voglio fare disco d'oro, mica lo zecchino. Flow pregio, fumo ed ondeggio con la meglio merda che si trova in commercio. Il contrario delle sneakers che meccio. Gira questa rizla di inizia il conteggio. 1, 2, 3, 4. MSR Trevise scacco matto. 5, 6, 7, 8. Chi fai pugnette, soffo cotto. Scendo in strada profumato col completo camo. Io mi credo molto meglio, non mi credo bravo. Il mio risultato non è buono e ottimale. Se, a casa non lo rifare. Se, a casa non lo rifare. Se, a casa non lo rifare. Se, a casa non lo rifare. Ho visto il tuo video, scusa, devo vomitare.